Crook's going over there and throwing them on the ground. Uh-oh. Damn, she She has to be a saint. She lived with him that day. I wasn't on the radio all day yesterday. I told you where I disappeared to, you crook, last night. No, when you asked me where I was at all day, and I told you I had to get the house done. Where'd you go? Yeah, I seen you yesterday. Oh, yeah. I'm back again. I gotta go far from that room. Cut my cup of glass. Goddamn glass gets so damn hot. I didn't even see a deer walking through it. Hey, Red Hawk, where you at? You mind him up, Doug? I know. Rod, no, Red Hawk. Yeah, looking for big boxes. You know somebody. 964. Sì, del viso e metti il viso a parte. E lo togli dalla la gaviota che si è finita e poi vi dico metti il vestito a sciogliere fai l'uva e una volta che si gira a terra fallo tornare su l'acqua e poi vi dico cucchia cappa babbo no no faccio cucinare la cucchia e esce meglio non lo so devo provare cappa così mi penserai quando mangerai il viso con la mozzarella no no senza parmigiano con la mozzarella vedi che è buono. Fidati, è un goccio, d'olio, ricordati dell'olio. Sì, con la vergine. Mettilo a crudo sul naviglio, quando te lo metti in piatto a tavola. Capito? E mettilo così, vedi che è buono. Bella, voglio vergine, bella, così mezzo da giù. Ma non è mai un cazzo. Senti, ieri ho acceso il fuoco, non è mai. Vabbè, ti stai prendendo la tachipirina, sì. Eh sì, lo so, ma è bene. Va bene. Però dita te la supposta schiaffa. Fatti aiutare. Che schifo. Lo so, ho capito. Sì, certo. Comprensivo. Cazzo. No, sono stufato di tenermi. Marina. Era lì che stava parlando, c'è anche pure la ripigliata. Cioè, roba di mente. outside the... Just wait and I'm a Zomania. For me, Zomania, who is to? Oh, the Zia goes on left, the Zia. Well, no. C'è un po' d'alternata, tanto. Yeah, capo, allora forse qua... Adesso non ne hai. Caro, adesso va meglio, bro. Adesso sì. Come consiglio? Hai fatto male questo? Ma che buono. Ah, si ammazza. Sta prendendo che la vita all'astra, la vita da... Li dazi bene. Senti, tu ti viene la bugata a me. Caro, sì. Sì, ho già lo so già. Va che non si ammazza. Capo. Allora vuoi va. Io via. Aspetta 2 secondi, Anto, tanto già sono qua. E devo cambiare la ventola all'alimentatore, quello che, che c'ho giù. Perché una volta che fa ciao, no, faccio già la cambio. Andiamo bene, andiamo. Allora, capi. Complice, Anto, guarda il video. Ma che sono due amici? Questo pure poi vendi sì. Cazzo di una roba da macchie. Allora, a parte il fatto prima del vecchio, posso farlo il vino? No, che lo fatti, ma lo tengo io. Ho trovato il diritto, quello è un motivo, ma è nostro, tieni tu. Già lo so, va. Purtroppo è così. Io già. Tanto che veniva pigliato e fatti il video. Ci romani, passa guai. Già lo so, già. Un telefonino come da giugano. Guarda che lui puoi fare un gatto di ti pare di piatti, no? Non funziona così. Caro, proprio che ti fosse. No, io sono sempre qua. Mi sono un po' nella cena, come è questo qua? Ti abbasso, tanto sei troppo alto. Un bel altro sono la colazione. Aspetta. Ora. Là c'è qua meglio adesso. Ma io abbassiamo troppo un bel forte. Cappa, vai. Guarda, un po' meglio. Adesso va benissimo. Vabbè, tanto siamo noi due, boh, vabbè. Ehi, ora. Un po' di potenza, salito. Va bene. Cappa. Oiuia. Vabbè. Silenzioso, dai, no? Vabbè, cazzo. Oh, ya. Yeah. Io per il rosso mi porto una bella doccia, amico. Mi dice ancora gogliuffa. Andiamo bene, vai, vai. Tanto sono qua che sto salando questi figli, altro. Vai, vai. Ehi, ok, vai, lo. Ora, chicos. Andiamo bene, andiamo. Sembra che sia più silenzioso, cioè silenzioso non è, però guarda qua facciamo un casino, facciamo così quasi. Fatto bene, no, no, mio già è tranquillo ancora, ed intanto bisogna passare a spirapolvere intanto, e se no se fate il vero si fate. Beh, si riempie di polvere, si riempie di polvere. C'è un bel calduccio qua, ho aperto anche il lucernaio un pochino, ma va, non sarremo appena, ecco qua, sta bene, questa casa è molto calda come casa. Sì, c'è una volta c'è quella guglia congelata. Ma vai. scendi a bella bella la stufa. Io c'ho una stufa così piccolina, non è che... Tu la accendi, io qualche volta accendiamo qualche furretto e scalda tutto. Ma cos'è, la miscela è la stufa? A gas. Ma facevo quella miscela. Quel caduto in occhi. Quando sono arrivato qui 4 anni fa non ho subito neanche il freddo. Perché qua c'è caldo. Ma si sente la vento, Arturo? No, non si sente, la mia si sente. Sì. Poco a poco, Non lo fate tutto che è lontano, Vabbè, te senti che sia... a posto. Grazie, grazie. Ciccio... sono un bel contento, da che non faccio un tenno un'altra gabbicciura, sono rinato, Prima non andavo, lei c'è la Andrica. Beh, normale, quando c'è l'altra sul tetto, la musica. Anche io all'inizio, all'inizio tu non entravi ancora, ma ti parlo del 92 mi pare, 92-93. Non c'è il tuo, ma hai sentito. Come si dice? Perché c'è la volantina dentro casa? Non fuori, dentro casa. Sempre disturbi, cose, non è che puoi utilizzare chissà che cosa, no? Sono sempre cose provvisorie. Beh, certo. Purtroppo è così. E comunque sia, questo va bomba. Questo fa bomba. Vabbè, comunque. C'ho qua il golfino, sto addosso, ho un cavio qua. Che va bene, rubo tutto. Arriva tanto, ci sono fatto. È perfetta adesso. Cazzo, meno male. Perché anche io prima entravo nel telefono di chissà di sopra, ho dovuto cambiare antenna, fare un casino. E io dietro il televisore, nel telefono di casa. Sì, tutti questi disturbi non ce li ha sul tetto. No, ma c'è volata là sul tetto, C'è vola... la via 27 L. Ah, vero, ma prima ad iniziare, prima di mettere la manto va. Sì, prima di mettere la manto, allora. Quella che c'ha 3 radiali, tipo la Energy, da. No, io ho la radiale. Addirittura non li aveva. No, la spirale solo ce l'aveva. Tipo un Ringo. Più o meno sì. Ma non era una 50 V? Sì, una 50 V. Che strano. Sì, facevo per il circolare, un po' bello. Lo so, purtroppo. Ma vedete, un letto, a posto. Così va meglio, sa. Te la troppo in che dai, sciuretto. Sara. Andiamo, vai, andiamo. Sara, andiamo, vai, andiamo, però. No, è che mi va tutto questo così, fra poco ti faremo gli osso. Dai, lascio, vai, no, che. Dai, ma qua gli avrei giocato i battimenti. Quello da variare è grande. Non ci sono quei problemi. Aspetta un attimo, mi alzo. Un appunto bicchio. No, la prima volta l'accendevo, facevo rumore l'avvento, adesso è a posto, va. Fastidioso. No, ho capito. No. Allora, domani mi viene a rigare di là, mi viene a rigare. Ho sistemato un telefono. Oggi non ce l'ha fatta perché non lo so, problemi manca. Ecco qua, tanto mi documento per il zoma, poi mollo un microfono, forse ti devo sentire l'elastico. No, mi vengono. Hola chicos. Hola chicos. Chicos. Hola chicos. Andemo, andemo. Guarda, ti posso vedere la mia supercamera da letto, la nostra supercamera da letto. Cosa tu? Un giorno ti facciamo vedere la nostra. su per camminare a Baletto. Ehi. Poi dopo mi fa il segno. Come si dice? Se vuoi già andato lì, ho visto che si mamma o te già mi giù, per carità. Cioè qua si sta anche bene. Però non so se la notte fanno casino, non tanto loro, ma un po' tutti. Vabbè, adesso già inizia il freddo, ne fanno di meno casino. Una macca che dopo adesso con un poco non posso cadere in io. L'altra di me è un ghiaccio tu, stereo, mezzo pratico. Però quando accendo io, ci dovremmo andare a casa. Ehi vabbè. C'è un trigugù, Mario, ma dai, gente, cazzo. Sai cosa fa? Ognuno si mette a casa sua, o casa sua. Non so se li prende chi li accetta. Guarda. Sa quante volte ci penso, chissà. Se un domani il conservatore Emanuele ritorniamo come la prima, tutto sa salire vecchio, negozietti, tutto sa raddoermi, tutto. Proprio un negozio a me, pure quello che vende pappendole lì in via Rosello, pure quello lì è chiuso. Perché non c'è rimasto meglio qua di me, un po', è cacchio di un altro, ma là c'è soprattutto cinesi e compare. No, ma comunque questi alla fin fine non ti rompono. Io sono andato a fare un lavoro a Piazza della Staffa della TV a Giorgio, sai che è pulito. Ho capito, hai? Ho piazzato la staffa della televisione nel muro. Hai capito? Quello che c'ha quattro bullone e cose, quattro vite nel muro. Sono salito nel suo, come ce l'abbiamo noi, però lui è molto più pericoloso, cioè un pochettino più piccolo e va a cara più pendenza della mia. Era pulito però. Con la staffa per le tribù. Ho capito. Qui adesso mi abbiamo messo un po' di messaggi qua. E c'ho un messaggio però non so da chi. Ecco qua. Mi hai piazzato, dici? Io sono piazzato, no, tu qua no. No, infatti mi sa che stavo pensando di metterla. Adesso vediamo. Poi il filo lo faccio passare nella canaletta. Adesso vedo. Ecco il gasito. Che forattino. Ci vorrà, come si chiama? Un tassello chimico. Tassello di buono, cioè quello che ho a 4, quello che ho piazzato io. Quello che ho piazzato qua è a 2, ma gli ho messo quei tasselli in acciaio. Quelli che hanno il ferro, quelli in acciaio ferro, là, che si vede in dolce. Che quando aggrappano non mollano più. Ho capito. Con la punta alla 12. Sì. E due anni che ne tratti, ma chi sei? Ma c'era un po', non sai cosa ha fatto. Siccome ha il coso alla... come si dice? Ci sono due paretti. Da paretti a paretti ha preso, ha bucato, ci ha messo una trafila. E un cavo non ne attacchi tu da inchivi. Il discorso è che... se non c'è un muro buono ci mette il tassello chimico, quello già reggesi. Non so, c'è quello reggesi, ma neanche se è buono il muro. Comunque, quello che ho preso ultimamente ho usato la punta da 10, ho usato abbastanza grosso da 10, cazzo. E tasselli da 10, ho visto che è una bella forte, l'ho avvitato con l'avvitatore, gli ho avvitati, è abbastanza forte. Ma vabbè, sono forti, vabbè. Se è cantone, il muro va meglio, va ma anche un tasselli, da. Però se il muro è forattino, è un casino. Poi dipende anche dalla TV che devi piazzare. Se qualche TV più pesante, è un casino. Non fa. Adesso per esempio qua io ho messo una base, no, per mettermi questo adattore, quello, la station, la stazione saldante. Ci ho messo tre staffe, ho messo 3, 6, 9 tasselli. Siccome il muro è cantone, ma il cantone ormai di su non serve a niente. Ed è un po' così, non è che sia molto sicuro, ma sta reggendo ancora. Però anche qua, essendo cantone, si è farinoso il muro, tu buchi senza subito la punta, non è di quello che tu stenti a fare il buco. Comunque ho messo questi tasselli sopra in ferro e sotto in plastica, però mi sa che uno ne scendi. E dici, stacca, cazzo, fate un casino unito, fate. C'è un po' un ciccio. E non come le buone tasselli chimici. Infatti, tu che la mettere il tassello chimico, buonanotte. Domani che ne tratti. E voi quando gli dici, buca, tagli una mola e ne ribocchi, vai tappi di bucchi. Non so, mi sembra che neanche ci svitano più così, E cosa? No, Ma poi mi giochi di questi che ne abbia fatto lo scaldabagno, mamma mia, chi c'è è pericoloso davvero? Accordo, a casa di babbo, sai come sono piazzati quelle? Sono piazzati all'antica proprio, quelle staffe che c'entrano nel muro, fatto di impasto di cemento, proprio all'antica. Beh, la tracchita, vedi, lì va bene, non ho bisogno di un tassello chimico, ma sono quei tasselli in ferro, una tracchita micidiale, anche nel cemento armato. Non so. Fatti apposta, capito? Ma pensando che miglioriamo, che mi viene il sonno, mi sono avuto un mese, sembra che ti la sapete, che mi si trovo. Ehi, a capo, dai. Questo muro è misto, un po'. Ok, dai, buonanotte, no. Ci sentiamo domani, altro, comunque ci becchiamo a fine settimana, dai. Poi siamo andati a venire un giorno via Sardegna, hai fatto un salto. Boh, vediamo, va. Ti è strabene lì. Lì ci sono di male, non ce ne sono. Pure vedi su di te via Bocino che ha aperto nuovo. Dice che è bello. E anche lì va bene. Bisogna andare a provare, vedere un po' la situation. Cappa, adesso vediamo, va. Ehi, ciao, ciao da Sara, ciao a tutti. Ciao.